Dal mondo della scuola, programma a cura dell'ufficio di pastorale scolastica. Bentrovati a tutti ancora da Mirko Cavallini Studio e di Daici in Regia, ultimo appuntamento prima delle vacanze natalizie anche con il mondo della scuola e ritroviamolo, salutiamo il professore Ermenegildo Guidolin, già docente di pedagogia generale all'Università di Padova. Bentornato professore. Grazie e buongiorno a tutti. Ripartiamo, per chi non ci avesse seguito o per chi era distratto la volta scorsa, dal tema appunto che abbiamo affrontato con lei. Abbiamo parlato in generale di educazione permanente, che quindi riguarda evidentemente anche coloro che consideriamo adulti. Ripartiamo da una ulteriore definizione di adulto. Ricordavamo la volta scorsa come la migliore definizione di adulto rimanga quella di Erik Erikson, che diceva: l'adulto è colui che si fa cura delle nuove generazioni. Quindi è interessante come l'adulto si definisca nei confronti dell'altro. Potremmo dire che la condizione adulta è il riconoscimento del primato dell'altro. Mentre il bambino è autocentrato, è guidato, cioè, come molto bene approfondì a suo tempo Freud, sul principio del piacere, l'adulto è eterocentrato, è proiettato, cioè, fuori, si mette in un atteggiamento di dono, quello che chiamiamo un atteggiamento oblativo, quindi supera l'egocentrismo propriamente infantile e si apre al rapporto con l'altro. Il primato dell'altro, quindi. L'adultità si definisce proprio nel raggiungimento di una maturità capace di comprendere l'altro. In fondo l'adulto è colui che è solo. In che senso? Mentre il bambino è totalmente dipendente dall'altro, ecco tra l'altro il ruolo dell'adulto, il bambino attende da lui tutto. Ma mentre appunto il bambino è dipendente dall'altro, l'adulto è centrato su se stesso, raggiunge l'autonomia, la responsabilità, la capacità di porsi in dialogo. Perché il dialogo sussiste soltanto nella misura in cui noi riconosciamo l'altro. Riconoscere l'altro, rispettare l'altro, promuovere l'altro. Ecco perché parliamo di un primato dell'altro. Proprio l'adultità è segnata da questo aspetto. Quindi una persona adulta e matura, si suppone, o maturanda, è colui che non, insomma, lascia da parte un po' il bambino egoista o l'adolescente egoista. Infatti parliamo per il bambino di non soltanto di egocentrismo, ma addirittura di narcisismo, questo ripiegamento su di sé. Noi invece siamo adulti proprio solo nella misura in cui ci apriamo all'altro. Ci rivolgiamo all'altro, ci poniamo in un atteggiamento poi anche di servizio, ecco, quando parliamo di dono, no? Che spesso richiamiamo questa straordinaria parola, indica proprio la maturità massima, l'incapacità di donarsi, di donare, di aprirsi, è il segno di una immaturità. Quello che dobbiamo ulteriormente precisare è che questa maturità non è mai un dato definitivo. È una possibilità. In una lettera famosa di Rilke ad una sua amica parla dell'umile decisione di sempre incominciare. Ecco il senso evolutivo, no? Dinamico della stessa adultità. Non si è adulti per un fatto anagrafico, si è adulti in questa tensione di continuo superamento del limite. E l'adulto è appunto allora colui, cerchiamo di approfondire ulteriormente, che ha il senso del limite, che poi è proprio della persona. Soltanto l'esperienza del limite, tra l'altro, ci fa maturare, ci fa andare oltre noi stessi. Allora qui è importante, anche e così se potrebbe sembrare un po' difficile perché il linguaggio in qualche modo diventa filosofico, ma anche qui nessuno ha paura delle parole. Noi siamo comunque filosofi, perché appunto siamo caratterizzati da questa capacità di pensare. E qui torniamo appunto all'adulto. A volte noi siamo, sì, anagraficamente adulti, ma non abbiamo raggiunto un'autonomia di pensiero. Anzi, spesso, in fondo, non pensiamo, subiamo le cose, dipendiamo dalle cose. Non le regoliamo, non le orientiamo, non le facciamo nostre. Quindi spesso, appunto, dicevo agli studenti, vero, dell'università, che loro erano lì non soltanto per accumulare conoscenze relative ad un determinato campo, ma proprio per imparare a pensare, perché questo è decisivo, qualunque poi sia il campo in cui opereremo, no? E vivremo la nostra esistenza. Da questo punto di vista potremmo richiamare un bellissimo titolo del massimo filosofo della scienza, Karl Popper, quando intitola la sua autobiografia La ricerca non ha fine. E noi troviamo precisato proprio questo: la ricerca non ha fine, e innanzitutto non ha fine la ricerca di noi stessi, di quello che siamo, quell'autocomprensione che accennavamo la volta scorsa. La nostra vita è un processo continuo di autocomprensione della nostra misura umana e quindi dell'opportunità e della necessità di andare oltre il limite. Ecco, allora, proprio a partire da questa ricerca e da ciò che di negativo può generare, ripartiamo tra pochissimo. Dal mondo della scuola, programma a cura dell'Ufficio di Pastorale Scolastica. Ricominciamo, andiamo lontano come sconosciuti, soli in una grande città. Ciao, piacere, come stai? Di che segno sei? Come ti chiami? Andiamo via lungo l'autostrada con lo zaino in autostop. Arrivare a capo no, tra tutti quei gabbiani, e prenderti le mani, noi due abbracciati in un iglu, dove ogni inverno che vivrò, ti scalderò, ti scalderò. Dal mondo della scuola, programma a cura dell'Ufficio di Pastorale Scolastica. Ripartiamo con questa puntata dal mondo della scuola, la seconda che facciamo con il professor Ermenegildo Guidolin, che ha insegnato per anni pedagogia generale all'Università di Padova. Dicevamo, professore, questa volta anche la precedente, l'adulto è colui che ha attenzione nei confronti dell'altro, è colui che si rende conto di essere appunto in formazione con un bisogno permanente di formazione continua. Ma questo, le domando, non può generare una frustrazione per cui il risultato non si raggiunge mai? Domanda interessante e in parte anche divertente. Sì, quello a volte di sentirci frustrati perché magari un determinato momento della nostra vita non abbiamo conseguito un risultato, non abbiamo raggiunto una meta. Di fronte alla frustrazione, il pericolo grande è quello poi di cadere in uno stato di depressione addirittura. Mentre invece la consapevolezza costantemente coltivata del nostro limite fa sì che ne usciamo, perché guardiamo oltre a questa nostra maggiore possibilità di essere, che senza dubbio domani si presenterà e che comunque è nostro compito riaprire costantemente. Una grande vero poetessa come Emily Dickinson, in un suo verso, si esprime così: io sono il compito più grande di me stessa. Io, cioè la nostra persona, è al centro di un compito. Il mio compito è di realizzarmi, sapendo però in partenza che non posso totalmente realizzarmi, perché questo coinciderebbe con l'arresto della nostra vita. Sarebbe già la fine di qualcosa, mentre invece la persona si configura come una potenzialità infinita. La possibilità di andare sempre oltre. Ed ecco allora perché è bene soffermarci ancora un attimo su questa coscienza del limite, che ci porta immediatamente al superamento del limite che è proprio della persona. Partiamo così in modo schematico ed essenziale. L'essere umano è un essere finito. Non siamo infiniti, no? Non siamo eterni, onnipotenti, onniscienti. È un essere finito. E il finito è tale proprio in quanto ha dei limiti, ma non saprebbe del limite. Questa è un'osservazione su cui soffermarci con il nostro pensiero. Noi non sapremmo del limite se non sapessimo già dell'infinito. E proprio questa nostra possibilità di andare oltre continuamente noi stessi, addirittura di aprirci ad un infinito, per il momento non definiamo questo infinito, che è reso possibile proprio dalla consapevolezza del limite. In questo senso, coscienza del limite e suo superamento sono paradossalmente coincidenti. È questa possibilità ulteriore che caratterizza sempre l'umano. Allora non fermarci alla frustrazione, allo scacco, alla delusione, ma aprirci immediatamente ancora verso l'orizzonte di esistenza che si apre davanti a noi. Potremmo ancora sintetizzare questo punto, che è importante anche se in qualche modo difficile. Potremmo ciascuno di noi dire: io sono ciò che via via mi costruisco. E questo è interessante. Noi non siamo dati una volta per tutto. Io sono ciò che via via mi costruisco. Anzi, io sono un continuo oltrepassamento di trincee, un permanente superamento di limiti, una ininterrotta ricerca del mio essere, un essere che sta sempre al di là di se stesso. Questo è un orizzonte di pensiero, ma anche di sensibilità, che potrebbe davvero migliorare molto il nostro atteggiamento nei confronti della vita che ci è stata data. I miei studi classici mi fanno tornare a galla un celebre proverbio che tradotto vuol dire: ciascuno è artefice della sua sorte. Certamente, è proprio così. Dato che ogni tanto è bello richiamare il grande contributo conoscitivo che ci viene dalla poesia, vorrei appunto richiamare agli ascoltatori alcuni versi di Fernando Pessoa, un grande poeta portoghese, vissuto tra il 1888 e il 1935. Scrive Pessoa: per essere grande sii intero, ma non esagerare, e non escludere niente di te. Sii tutto in ogni cosa, metti tanto quanto sei nel minimo che fai, come la luna in ogni lago tutta risplende perché in alto vive. Ecco, vale la pena soffermarsi qua e là su questi versi, perché quando Pessoa scrive per essere grande, intende dire per essere te stesso. E non bisogna esagerare, perché allora entreremmo in un'esperienza di orgoglio, di prevaricazione dell'altro, no? Per essere grande, cioè per essere te stesso, cerca di non dimenticare niente di te stesso. Ricordati che sei un'unità psicofisico-spirituale che attende di essere espletata, vissuta, celebrata. E questo è quel compito più severo di se stessi di cui parlava Emily Dickinson. Io sono il compito più severo di me stessa. Ecco, questo dato positivo che ci viene anche da una voce poetica ci può far pensare. Ecco, insisterei molto su questa capacità di pensare, su questa riflessività, mai disgiunto ovviamente dal sentire, cioè dal sentimento, da quello che noi usiamo, esprimiamo con la parola cuore. E cuore qui non c'è nulla di sentimentale, è la capacità di sentire le cose, di sentire l'altro, di sentire la bellezza del mondo, di sentire la verità di una ricerca o di una rivelazione. È questa pienezza, ecco, di senso che possiamo sempre più ampliare giorno dopo giorno. Citando il Vangelo, il cuore va dove c'è il tesoro. Ecco, e con queste citazioni allora facciamo un'ultima pausa e poi torniamo insieme. Dal mondo della scuola. I'm too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave me. It hurts. And I am too sexy for Milan, too sexy for Milan, New York and Japan. And I am too sexy for your party, too sexy for your party, no way I'm disco dancing. I'm a model, you know what I mean, and I do my little turn on the catwalk, yeah, on the catwalk, on the catwalk, yeah, I do my little turn on the catwalk. Catwalk, yeah, on the catwalk, yeah, I shake. the catwalk. I'm too sexy for my cat, too sexy for my cat, for pussy cat. I'm too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave me. And I'm too sexy for this song. Ultima parte di questa puntata dal mondo della scuola, stiamo parlando in generale di educazione con il professor Ermenegildo Guidolin, al quale sottopongo adesso un piccolo paradosso. Già la volta scorsa facevamo cenno ad alcuni episodi, alcuni aneddoti. Capita di vedere, professore, dei genitori che sono ancora bambini nella testa, ma capita di vedere bambini che sembrano già adulti. È un paradosso, ma è anche una realtà, purtroppo. Sì, proprio un paradosso e anche una realtà. Il fatto che dei genitori dimostrino a volte un livello di riflessione, di pensiero assolutamente inadeguato, è proprio dato dal fatto che non c'è stata la minima preoccupazione anche di diventare genitori. E quindi approfitto, rivolgendomi affettuosamente ai genitori che ascoltano, e senza, per carità, vero, che si facciano sensi di colpa, perché tutti abbiamo appunto limiti, dicevamo prima, tutti sbagliamo. Anzi, ricordo qui agli ascoltatori che un grande, vero, maestro della psicanalisi intitolò un suo testo Genitori quasi perfetti, nel senso che dal punto di vista psicologico è pericoloso anche avere dei genitori che pensano di essere perfetti. Ma per tornare alla domanda, ecco, è importante che davvero il genitore proceda, maturi, cresca insieme al bambino, al fanciullo, al preadolescente, all'adolescente e al giovane. Perché uno dei fenomeni indicato nella sua domanda è che invece troviamo, di contro, bambini che sono già dei piccoli adulti, sia per atteggiamenti, per linguaggi, anche a volte per riflessioni, tanto che orgogliosamente a volte come genitori noi sottolineiamo l'intelligenza dei nostri figli. Ecco, su questo punto è bene essere molto attenti, ecco, molto discreti, e soprattutto di fronte ai figli, ecco, non arriviamo ad esaltazioni fuori luogo. Quello che rimane come fenomeno pericoloso e preoccupante è la precocizzazione, cioè l'anticipazione di esperienze ai vari livelli evolutivi. Allora vorrei ricordare che la crescita, lo sviluppo umano, per essere armonioso, deve avere dei ritmi naturali, ha dei suoi tempi, non possiamo fare anticipazioni. E a volte può capitare, magari con le migliori intenzioni, organizzando una festa di compleanno, di onomastico, di comunità infantile, eccetera, di esagerare proprio nei toni, nei preparativi. In realtà a volte osserviamo degli ambienti che in qualche modo imitano le discoteche, le balere. E non parliamo poi dell'uso anche delle canzoni, della musica. Sappiamo quanto è presente la musica, vero, in tutte le sue forme oggi, però anche qui un po' di saggezza, un po' di pensiero ci porterebbe invece a sottolineare di più l'importanza che il nostro bambino viva comunque e venga inserito in un ambiente in cui c'è un clima, c'è una distensione, c'è la possibilità di parlare, di giocare. E non senz'altro con la prima macchinetta o con l'ultima invenzione informatica, ma giocare, che rende possibile la manipolazione, la trasformazione, l'invenzione, la costruzione. Dobbiamo pensare, sì, che c'è un pensiero, ma importante nell'uomo è anche la fantasia e la creatività. E spesso noi condizioniamo troppo, spesso anche con i migliori intenzioni e con i migliori regali, proprio questa grande risorsa dell'essere umano che chiamiamo creatività. Perché anche la creatività richiede di essere educata. Educare la creatività vuol dire creare condizioni, offrire opportunità, ambienti in cui il bambino scopre il mondo, ma insieme lo inventi, lo arricchisca con le sue sorprese, con le sue costruzioni, con le sue manipolazioni, dicevamo. Ecco, allora cerchiamo di rispettare i ritmi di una crescita, cerchiamo di non fare anticipazioni, cerchiamo di non chiedere troppo, perché inconsciamente può darsi che spesso il genitore possa commettere questo errore, che qualcosa che vediamo a 3, 4, 5 anni, semplicemente perché avviene in questa età, dimostri una superiorità intellettuale del bambino, quando invece questo non è vero. Il bambino, anche per maturare armonicamente, sia sul piano intellettuale, sul piano affettivo, sul piano relazionale, sul piano fantastico, ha bisogno di attenzioni, di rispetto. È importante, pensate che questa parola rispetto viene dal latino respicere, vuol dire guardare, osservare, riconoscere. Ecco il grande compito dei papà e delle mamme, ma poi dei maestri, delle educatrici, dei professori, è di non perdere mai questa capacità di osservare il minore, il bambino, il fanciullo, il preadolescente, perché da questa osservazione può venire anche noi una grande lezione di umanità. È un po' la pazienza del contadino, no? Che coltiva, oppure, se mi passo un altro paragone, così, visto che siamo anche a ridosso delle feste, un paragone culinario, è un po' come la cottura al forno o al forno a microonde. Il risultato alla fine sì c'è, però le tempistiche sono, certo, sono approfitto diverse. Approfitto di questo richiamo al Natale per salutare e fare i migliori auguri agli ascoltatori con un bellissimo verso del poeta francese Paul Claudel, un convertito, quando in una sua ode scrive: dalla grande notte di Betlemme le nostre tenebre, quindi i nostri limiti, le nostre incapacità, sono sul punto di generare stelle. Con molti auguri. Grazie al professor Ermenegildo Guidolin, buon Natale a lei e a tutti gli ascoltatori. Il mondo della scuola torna dopo l'Epifania. Grazie. Dal mondo della scuola, programma a cura dell'Ufficio di Pastorale Scolastica.